24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8 e 12 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Maria Latella, buongiorno, eccoci, ciao. Buongiorno, buongiorno Simone. Ieri spezzavo più di una lancia, un lancione, sul fatto di dover guardare con fiducia, se non con ottimismo, al presente, stare dentro il presente, ma certo le notizie che arrivano questa mattina proiettano ancora più qualche inquietudine su questo gennaio. Qualche ombra decisamente, sì. La ricordiamo e lo ha raccontato GR24 poco fa, appunto l'uccisione da parte degli americani del generale iraniano Qassem Soleimani, che è una delle figure più importanti appunto iraniane, il responsabile di fatto delle operazioni all'estero. La commenteremo più avanti con Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Aspettiamo anche i vostri commenti, non solo su questo, ma su tutte le notizie di giornata, come sempre al 349-238-6666. Vi raccomando, visto che oggi sono in diretta da Roma e ho poca visibilità sugli WhatsApp scritti, di mandarci gli SMS, buoni vecchi, sì. SMS, tanto ormai ve li tirano dietro, quindi non c'è problema. 1000 ogni mese, 2000 ogni mese, non li usate mai perché tanto usate WhatsApp. Bene, usateli per mandarli a Radio 24, oppure WhatsApp audio, quelli sì, li prendiamo e li riceviamo, oltre all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Come si diceva, più avanti parleremo appunto dell'uccisione di Soleimani. Avremo ospite il ministro Roberto Speranza per parlare delle aggressioni. Di queste aggressioni nei confronti dei medici. Si ripetono costantemente ormai da qualche anno. E sì, anche qui sì. Dobbiamo semplicemente prendere atto che finora non è stata trovata una soluzione o un messaggio che metta un po' di sana pressione su, sì, chi pensa di poter attaccare impunemente. Però c'è anche quest'altro aspetto che tra poco approfondiremo, sì, dell'Italia che andiamo a raccontare. Esattamente, l'Italia che vogliamo raccontare è anche in qualche modo un'apertura d'anno, no? Per capire un po' come si preparano gli italiani a questo 2020. Siamo in linea con Luca Ricolfi, che è sociologo, insegna analisi dei dati all'Università di Torino, è presidente responsabile scientifico della Fondazione David Hume. Il suo ultimo libro è La società signorile di massa, e sta facendo discutere abbastanza, edito dalla Nave di Teseo. Ricolfi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Grazie. Vai Maria. Buongiorno professore, confesso, ho letto e riletto il suo libro, ma poiché a Radio 24 se n'è già parlato, sarà poi lei a come dire, farne una sintesi e non certo io. Quello che però vorrei dire ai nostri ascoltatori è che in sostanza la fotografia che emerge dalla ricerca approfondita che il professor Ricolfi ha fatto appunto in questo La società signorile di massa, si può sintetizzare più o meno così. Siamo un paese in cui per la prima volta il numero delle persone che non lavorano, vale a dire pensionati, casalinghe, cioè donne che lavorano e tanto in casa ma non fuori casa, giovani che non studiano e non lavorano, cioè tutta questa massa di italiani che non lavora ha superato il numero di quelli che lavorano. Come è possibile che poi la società sia signorile di massa, cioè si consenta le vacanze, il numero di cellulari che abbiamo altissimo, 2 quasi a testa tra un po', e tutto il resto, com'è possibile questo? Beh, il professor Ricolfi lo spiega ed è una spiegazione preoccupante, io credo. Prego professore, com'è che possiamo essere una società signorile di massa, con sacche di grande povertà, ma insomma signorile di massa, in una società che ha un numero di non lavoratori più alto di chi lavora? Ma guardi, il motivo non è unico, ci sono motivi storici e motivi di altro tipo, di tipo sociologico, però io li ho riassunti essenzialmente in 3. Il primo motivo è l'enorme ricchezza accumulata da un paio di generazioni, da quelli che hanno ricostruito l'Italia e dai loro figli. Questo è una riserva di valore che permette di accedere a consumi anche se non si lavora. Questo è un fattore importantissimo. Poi c'è un fattore che io ho messo al terzo posto, ma voglio anticipare nel discorso qua, che è l'esistenza di un'infrastruttura paraschiavistica che permette ai signori, cioè ai ceti medi e ai ceti alti, che sono numerosi, sono circa 2/3 o 3/4 del paese, permette di vivere in condizioni di consumo opulento, io lo chiamo, che spesso è mediato da figure che appunto stanno in questa infrastruttura paraschiavistica, che procura ai signori i loro piaceri o semplicemente le loro comodità. Si va dal, lei in questa struttura paraschiavistica inserisce i ragazzi che portano il cibo a casa, per esempio, sì. Le badanti e anche le prostitute nigeriane. E anche le colf ci inserisce, professore, sì, lei. Ma anche le prostitute nigeriane. Anche gli spacciatori che portano la coca qualche volta a domicilio, certo, dei signori. E poi ci metto soprattutto due grosse categorie, che sono le attività delle cooperative, che sono spesso gestite da persone che non hanno molto rispetto della forza lavoro, dei dipendenti. Io penso, vedo l'esperienza mia all'università, noi abbiamo dei usceri, donne delle pulizie, eccetera, a cui abbiamo esternalizzato questi servizi, che prendono dei salari veramente da fame e costano all'università il triplo di quello che il lavoratore prende, quindi c'è una grossa intermediazione del mondo cooperativo. Naturalmente non tutte le cooperative, però quando cominciamo ad avere circa 500.000 di persone in queste condizioni c'è da riflettere. E poi ci sono altri fenomeni ancora, penso alla consegna a domicilio di materiale pesante. Noi magari compriamo un bel armadio o un bel, non IKEA, non da montare, ma completo, o una lavatrice o un tavolo, e chi ce lo consegna? Ce lo consegnano dei fattorini, che non sono i nostri ragazzi che portano il cibo a casa, ma sono uomini, spesso immigrati, quasi sempre dell'est, gestiti da padroncini che li pagano pochissimo, qualche volta chiudono l'azienda e scappano senza aver pagato gli ultimi 3 mesi di lavoro. Io ho conosciuto personalmente situazioni di questo genere. Allora, questa infrastruttura paraschiavistica che fa passare dei weekend tranquilli e piacevoli ai signori conta circa 3,5 milioni di persone in Italia, che non è tantissimo, ma non è neanche pochissimo, perché stiamo a 60 milioni. Avere 3,5 milioni in queste condizioni è abbastanza. E il terzo punto? Il terzo punto l'ho lasciato fuori e l'ho messo al fondo, perché è quello che fa più discutere. Io resisto un po' a parlarne, perché non se ne può parlare in 5 minuti, però ci provo lo stesso, visto che mi avete fatto la domanda. Il terzo punto è la distruzione della scuola e dell'università. La distruzione della scuola e dell'università, che è stata prodotta abbastanza scientemente in 50 anni, perché è cominciata alla fine degli anni 60 questa distruzione, è la principale responsabile della condizione giovanile oggi, che è una condizione ambivalente, perché da un lato i giovani sono vittime perché non ci sono posti di lavoro sufficienti, quelli che ci sono non sono ben pagati, ma dall'altro sono anche corresponsabili, soprattutto insieme alle loro famiglie, perché accedono al mercato del lavoro con dei titoli che certificano delle competenze che in molti casi non hanno. E questo crea una situazione patologica, perché i ragazzi pensano di avere il diritto ad avere un lavoro di un certo tipo e non si rendono quasi mai conto di non essere assolutamente all'altezza di compierlo. In più c'è la fuga dal lavoro manuale, dal lavoro tecnico, eccetera, che complica enormemente le cose. Professore, mi permetta, la interrompo solamente un attimo, perché abbiamo una delle nostre pause, quasi me l'ero dimenticato ad ascoltarla, abbiamo il traffico e poi ritorniamo da lei. Mattino. Professore, se mi permette, nel suo libro c'è un'altra questione che secondo me può far discutere, ed è questa, è un po' la premessa del tutto, ossia il fatto che lei racconta, guardate che questo paese, o meglio, i cittadini italiani, ok, non i cittadini stranieri residenti in Italia, i cittadini italiani stanno molto meglio di quanto la stampa, i giornali, se vogliamo anche le radio e le televisioni non vi raccontino, tanto che il 97% la povertà non la sfiora nemmeno. Il contraltare è che è una società estremamente statica quella italiana. Il punto mi sembra questo, cioè il punto focale che lei identifica mi sembra questo dal punto di vista del reddito e della vita di questo paese e della vita degli italiani. Questo punto lo tocco soprattutto nell'ultima parte, dove intanto c'è la definizione di società signorile che include la stagnazione, cioè una società è signorile quando c'è questa mancanza di lavoro associata a consumi opulenti e il sistema è in stagnazione. Ma nell'ultima parte io mi occupo innanzitutto di vedere se solo in Italia siamo in questa situazione, e la risposta è sorprendentemente, perché non lo sapevo all'inizio di scrivere il libro. Prima di scrivere il libro non lo sapevo, è che sì, soltanto l'Italia è una società signorile di massa, nessun altro paese lo è. Alcuni si avvicinano, ma nessuno lo è ancora diventato pienamente. E poi affronto nell'ultima parte il problema delle cause, e a mio parere la causa, la regina di tutte le cause, e il ristagno ventennale della produttività. Non c'è nessun altro paese del mondo occidentale, del mondo sviluppato, del mondo capitalistico, dei paesi avanzati, nel quale la produttività è ferma da 20 anni. Allora, questa cosa non può durare senza comportare il declino del paese, declino che tuttavia è così lento da permettere a tutti noi di non accorgercene. Se noi ogni anno abbiamo qualche difficoltà in più, ma sono piccole difficoltà in più, ci metteremo 20 anni a ritrovarci come la Grecia. Questo in forza evidentemente della ricchezza accumulata, no? Mi sembra di capire, professore, certo. di una serie di rendite di posizione e anche della spesa allegra dello Stato in certi casi, che ha sostenuto appunto queste rendite di posizione. Sì, certo. Professore, Mi consente di aggiungere una cosa. Quindi noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità, utilizzando chi è molto ricco, il rentier, no? Utilizzando le rendite di famiglia, i grandi appartamenti, gli investimenti. Chi è meno ricco, magari affittando la casa come Airbnb, perché lei giustamente mette in rilievo che non si butta via niente, pur di non lavorare, si affittano gli appartamenti dei nonni, sì, eccetera. E poi si vive anche delle pensioni dei nonni, quando non si può utilizzare un grande reddito lasciato dai nonni e dai bisnonni, almeno si vive un po' anche con la pensione dei nonni. È una vita un po' una vita di attesa, si vive il presente, sì, e non si guarda al futuro. Sì, esatto, però aggiungo una cosa un po' macabra che ahimè devo aggiungere, è anche una vita di attesa della scomparsa di coloro che la ricchezza l'hanno prodotta. Cioè io ho fatto un calcolo calcolando quant'è l'eredità attesa di un ragazzo in Europa, e la scoperta è che in nessun altro paese europeo l'eredità attesa dai ragazzi è alta come in Italia. Allora questo fatto, questo naturalmente ha una spiegazione complessa, perché c'è di mezzo la ricchezza accumulata da due generazioni, ma c'è anche il fatto che non facciamo figli, cioè ci sono tantissimi vecchi a fronte dei quali pochissimi figli, quindi questa enorme ricchezza tendenzialmente nel futuro si spalmerà su una piccola minoranza di persone, che sono quelli che attualmente sono giovani. Allora questa polizza di assicurazione consistente nel fatto che prima o poi i tuoi genitori muoiono è enormemente generosa in Italia, e spiega una circostanza che altrimenti è inspiegabile, cioè perché tanti giovani semplicemente ritardano e rallentano l'ingresso nel mercato del lavoro. È un comportamento che sarebbe stato assolutamente inconcepibile anche soltanto 30 o 40 anni fa, perché non c'erano queste condizioni, i giovani erano di più, la ricchezza attesa era più bassa e quindi questa polizza di assicurazione non poteva funzionare. Cioè, in pratica un ragazzo dice: chi me la fa fare di cercare lavoro, tanto poi eredito l'appartamento della nonna materna, l'appartamento dello zio, l'appartamento del nonno paterno, sono figlio unico e di quello campo. È conto corrente. E questo vale anche per il ceto medio, cioè non dobbiamo sempre pensare solo ai ceti altissimi. È un paese in cui la ricchezza media sfiora familiare sfiora 400.000 euro. Voi capite che le situazioni in cui non c'è proprio niente da parte sono piuttosto rare. Naturalmente io insisto anche sul fatto che esiste però l'infrastruttura paraschiavistica, i poveri ci sono, un terzo degli immigrati è povero, cioè non è che non ci sono problemi sociali nel paese, ma non riusciamo a affrontarli anche per l'atteggiamento da rantier che i ceti medi e i ceti alti hanno sviluppato in questi anni in Italia. Allora, questo per me è drammatico. Allora, dovremmo avere un ascoltatore, un'ascoltatrice per meglio dire, Daniela, buongiorno Daniela, eccoci. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Salve, senta, volevo far notare al professore che in Italia c'è un'economia sommersa molto importante, parecchie persone che lavorano al nero, non dichiarano niente. Io penso che tutti quelli che dice non lavorino, non studino, molti di loro invece lo facciano ma non paghino le tasse. Tutto qua, volevo far notare questo. Insomma, la nota di Daniela è interessante, professore. Non so se questo è rientrato nei suoi calcoli, no? Persone che dicono che non lavorano, ma in realtà lavorano. No, in realtà i calcoli vengono sempre fatti tenendo conto dell'economia sommersa. Per fortuna abbiamo un sistema statistico nazionale da parecchi anni che riesce a calcolare abbastanza accuratamente quanto è il lavoro emerso e quanto è il lavoro sommerso. Quindi nel mio calcolo i lavoratori che lavorano in nero, in modo anche molto gravemente irregolare, sono inclusi tra i lavoratori, quindi non li ho affatto dimenticati, come non ho dimenticato, professore, l'evasione fiscale. Certo. Senta, professore, un'altra cosa che mi ha molto colpito del suo libro è che è uno specifico italiano, non risulta in nessun altro paese, tantomeno europeo, è la propensione al gioco. Cioè, è come dire che se io non ho gli appartamenti ereditati da nonna e bisnonna, la mia sola possibilità di ascesa sociale è comprare un biglietto della lotteria, un gratta e vinci. Ne parlo perché tra poco avremo anche, tra l'altro, la lotteria del 6 gennaio. Perché c'è questa propensione al rischio, che poi al gioco, che poi porta anche, peraltro, ai problemi di ludopatie di cui spesso si parla? Se devo essere onesto, una spiegazione che mi convinca come sociologo non ce l'ho. Posso fare qualche congettura. Una l'ha anticipata lei: il fatto stesso che il cosiddetto ascensore sociale sia bloccato spinge a seguire strade alternative, di cui una è l'evasione fiscale sicuramente, altre sono le attività illegali e la terza può essere il gioco d'azzardo. C'è da dire tuttavia che chi gioca d'azzardo sembra non rendersi conto di una cosa, che il gioco d'azzardo è una delle cause della diseguaglianza. Io nel libro faccio una piccola simulazione in cui faccio vedere cosa succederebbe se metà della popolazione giocasse d'azzardo e metà no, e l'effetto è che nel giro di pochissimo tempo si creerebbero delle diseguaglianze enormi, anche a partire da una situazione di perfetta uguaglianza. Perché? Perché ci sono i perdenti e ci sono i giocatori accaniti. I perdenti e i giocatori accaniti sono persone che alla lunga dilapidano il patrimonio che posseggono. E questo è un fattore di diseguaglianza che non viene mai considerato, perché non può essere imputato ad altri, non può essere imputato allo Stato, ai politici, ai cattivi, ma è prodotto da noi stessi, è però un fattore molto incisivo. Grazie a Luca Ricolfi per essere stato con noi. Il suo libro, lo abbiamo detto all'inizio e lo ricordiamo, è La società signoriale di massa, edito dalla Nave di Teseo. Sociologo, insegna analisi dei dati all'Università di Torino. Ricolfi, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata e buon buona anno. Buona giornata, grazie professore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con il ministro Roberto Speranza, il ministro della Salute. Parleremo delle aggressioni ai medici, ci occuperemo anche della notizia di questa mattina, notizia più importante di oggi, che l'uccisione da parte degli americani del generale iraniano Soleimani. A tra poco. Mattino. Buongiorno, sono Martina, ginecologa in un ospedale inglese. Qui medici e paramedici vengono tenuti in elevata considerazione. Nessuna aggressione, anzi tanta cortesia. Ciao! E questo è il racconto di una nostra ascoltatrice con la quale partiamo evidentemente. In media 3 al giorno le aggressioni denunciate. Quando parliamo di aggressioni ai medici, sia chiaro, non parliamo solamente di medici ma di operatori sanitari in genere. Se ne sono registrate altre, lo abbiamo raccontato a Napoli, addirittura con una bomba carta la notte di San Silvestro contro un'ambulanza, un medico ferito. Le tensioni che si accrescono soprattutto nei pronto soccorso. Di questo vogliamo parlare con Roberto Speranza, ministro della Salute. Bentornato ai nostri microfoni. Eccoci, Speranza. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, vai. Buongiorno ministro. Senta, una delle ragioni che viene considerata a mo di giustificazione per spiegare questi atti, che giustificabili non sono, è l'esasperazione del cliente, tra virgolette, paziente, perché magari l'ambulanza arriva molto in ritardo oppure perché c'è da fare una lunga fila al pronto soccorso. Ora, accanto al fatto che effettivamente quando uno ha un parente che sta molto male perde spesso il controllo, tuttavia quello che le chiedo è: non è stato in alcun modo previsto che all'interno dei pronto soccorsi ci siano delle presenze della polizia? Quando facevo la cronista ai tempi, molti secoli fa, la cronista di Nera, e andavo in giro per pronto soccorsi a Genova per trovarne notizia, c'erano sempre gli agenti di polizia. È ancora così? Ma gli agenti di polizia ci sono spesso, chiaramente non dappertutto, però vorrei essere chiaro su un punto. È evidente che in alcuni casi ci sono disservizi e dobbiamo intervenire per recuperare il terreno perduto. Voglio ricordare che purtroppo veniamo da una lunga stagione di definanziamento e non aver messo soldi sul Servizio Sanitario Nazionale ha provocato un indebolimento del servizio stesso. Però le violenze non sono mai accettabili, ecco. Voglio essere chiaro su questo. Penso che c'è bisogno di una risposta molto ferma da parte dello Stato, perché sui disservizi, sui limiti bisogna chiaramente intervenire e lavorare, ma nulla, nulla può giustificare la violenza. La violenza è sempre inaccettabile e in modo particolare inaccettabile quando si rivolge contro chi ogni giorno si prende cura di noi. Noi abbiamo medici, infermieri, professionisti sanitari che anche tra mille difficoltà offrono un servizio sanitario nazionale di buona qualità, e io penso che sia una delle risorse più preziose che è il nostro paese. Prendersela con loro, usare violenza contro un medico, un infermiere, un camice bianco, penso che sia del tutto inaccettabile. E c'è bisogno e perché di la legge, perché la legge che avete preparato e che prevede pene fino a 16 anni per chi aggredisce un operatore sanitario, perché la legge è ferma in Parlamento? Ma la legge intanto è stata già approvata dal Senato e voglio ricordare è stata approvata all'unanimità, quindi anche col voto favorevole di tutti i senatori della Repubblica, di tutte le forze politiche senza distinzione. E io penso che questo sia un fatto positivo, perché quando si parla di difendere i nostri camici bianchi, i nostri medici, i nostri infermieri, si possono abbassare le bandierine dello scontro politico quotidiano e unire invece tutto il nostro paese a difesa di questa categoria molto importante. Dopodiché, come è noto, il nostro è un sistema biparlamentare, oggi c'è bicamerale, c'è una seconda Camera, c'è la Camera dei Deputati che sta analizzando il provvedimento. Io mi auguro che si faccia presto, ecco, il mio appello è a essere più veloci possibili, perché questa è una norma di cui il Paese ha enorme bisogno. E questa è una norma importante che dà una prima risposta. Chiaramente non basta una legge, io penso che c'è bisogno di una grande battaglia culturale, che il punto decisivo sia ricominciare ad investire sul nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché è chiaro che puoi mettere anche una pena più dura, ma se non dai come Stato la sensazione di investire davvero sui tuoi ospedali, sui presidi sanitari, sui tuoi medici, sui tuoi infermieri, non c'è pena che possa essere sufficiente. E voglio rivendicarlo, perché in questa manovra di bilancio abbiamo iniziato a farlo. I soldi che abbiamo messo in questa manovra di bilancio sulla sanità non si mettevano da molti anni, 2 miliardi in più sul fondo, 2 miliardi in più sull'edilizia e l'ammodernamento tecnologico, l'abolizione del super ticket, abbiamo allargato le maglie per le assunzioni del personale, stabilizzeremo molto più molti precari, abbiamo consentito l'utilizzo delle graduatorie per lo scorrimento delle graduatorie sugli idonei, insomma c'è un pacchetto sulla personale che rimette al centro la sanità nel nostro sistema paese. Se non facciamo questo, non basterà un elemento di natura repressiva, di cui pure c'è bisogno di fronte a questi fenomeni, ma io penso che il primo messaggio debba essere di carattere culturale. Dobbiamo difendere il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è una pietra preziosa, va migliorato ogni giorno, va coltivato ogni giorno, ma non dimentichiamo che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale di grande qualità, tra i migliori del mondo, ed è che dà la possibilità a tutti di essere curati, indipendentemente dalla condizione economica di provenienza, indipendentemente da dove si vive. Insomma, io sono orgoglioso di un sistema che funziona in questo modo. No, perché il tema, mi sembra, Speranza, sia un po' quello che anche toccava lei, no? In questo paese si interviene sempre quando c'è un problema, quella che si ritiene un'emergenza, si interviene sempre dal punto di vista del diritto penale, e poi però c'è quello che avviene sul terreno, no? Che esula dal diritto penale, e quindi il pronto soccorso intasato, questo senza voler giustificare, l'esasperazione di fronte al pronto soccorso intasato, perché la persona che arriva là, secondo me, non pensa nemmeno alle conseguenze penali, è semplicemente innervosita, arrabbiata, stanca, preoccupata per la persona che ha portato nel pronto soccorso, si trova di fronte ad una fila eterna e a un certo punto gli dà un po' di volta il cervello, insomma. Quindi c'è un lavoro forse anche da fare su questo, evidentemente, no? Sì, a partire dall'idea che ogni violenza è sempre inaccettabile. Per carità, ma quello, su questo siamo, no, siamo d'accordo, no? È bene rimarcarlo sempre, perché altrimenti diamo la sensazione di giustificare. Ma figuriamoci. Non sono giustificabili, però è evidente che dobbiamo intervenire per migliorare la nostra offerta e i nostri servizi. Io penso che il nodo di fondo sia quello di un definanziamento molto consistente avvenuto negli ultimi anni. Cioè, non voglio dare un giudizio politico, non mi interessa, ma la ricostruzione storica degli ultimi 15 anni è una ricostruzione di definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Con questa manovra di bilancio chiudiamo, io mi auguro, definitivamente la stagione dei tagli e ricominciamo ad investire. Perché è chiaro che se tu non hai il personale, se la spesa che le regioni effettuano per il personale resta bloccata, come è avvenuta per 15 anni, ai numeri del 2004 meno l'1,4%, questa era la norma vigente fino a pochi mesi fa, è chiaro che a un certo punto le liste d'attesa aumentano, i pronto soccorsi c'è la fila, le risposte non sono adeguate, questo chiaramente crea maggiori fibrillazioni. Bisogna ricominciare ad investire. Certo, Ministro, mi pare che su questo punto lei sia stato più che chiaro e l'abbia ribadito più volte. Le faccio una domanda sulla situazione del governo, perché è importante, se per fare i progetti bisogna che il governo duri, e anche alla luce di un gennaio pieno di appuntamenti significativi per la vita del governo, le chiedo quanto lei pensa che durerà. Le chiedo anche come andrà a finire. Primo, la questione della revoca delle concessioni ad autostrade, perché ne abbiamo parlato ieri con la sua collega ministra De Micheli, e secondo, come pensate di mettervi d'accordo sulla legge elettorale, perché l'EU, il suo partito, ha una posizione, mi pare, diversa sia da Italia Viva che dal PD. Ma intanto sul governo io sono ottimista, io credo che questo è un governo che può fare bene, deve ripiegarsi sui problemi degli italiani, io sono per una moratoria sulle polemiche, le discussioni inutili, anche quelle legittime che si fanno interna ai partiti, ma credo che dobbiamo concentrarci sui dossier. A me interessa parlare appunto di come far funzionare meglio il Servizio Sanitario Nazionale, mi interessa capire come si affrontano i nodi che ci sono sul tavolo e penso che col lavoro, con sobrietà, con meno tweet, meno Facebook, meno clamore, diciamo, ma con più lavoro quotidiano, rigoroso, studiando i dossier, si possano ottenere risultati importanti, come credo stiamo iniziando a fare nell'ambito di cui ho competenza diretta. E sulle autostrade io penso che c'è bisogno di tutelare l'interesse pubblico, questa è la priorità assoluta ed è chiaro che le autostrade rappresentano un monopolio naturale, per cui è evidente che dobbiamo essere conseguenti. Ci sarà ancora una discussione, c'è una norma che è stata approvata dentro il mille proroghe che credo vada nella direzione giusta perché aumenta il potere dello Stato. Lo Stato deve rivendicare la propria funzione. Quando vediamo che pezzi di autostrada cadono mettendo a rischio l'incolumità delle persone, io credo che non possiamo voltarci dall'altra parte e far finta di nulla. Quindi anche in questo caso non servono scontri ideologici o altro, serve semplicemente che un grande paese difenda i propri interessi fondamentali e credo che di fronte a un monopolio naturale il ruolo dello Stato e l'interesse dello Stato debba essere difeso. Io più in generale sulla legge elettorale invece credo che la discussione sia in corso, c'è stata la riduzione del numero dei parlamentari, capiremo tra qualche giorno se ci sarà o non ci sarà un referendum. In ogni caso, di fronte a una riduzione del numero dei parlamentari, la mia opinione è che serva un sistema elettorale che sia capace di mettere in sicurezza il paese. A me non spaventa una soglia troppo bassa, troppo alta, io vorrei semplicemente che costruissimo un sistema elettorale in cui si creano condizioni di messa in sicurezza del nostro paese. Ecco, questo mi pare il punto fondamentale. Senta Speranza, mi scusi se torno a bomba e poi magari Maria Latella avrà un'altra domanda sui temi politici e su temi più larghi, però il tema dei pronto soccorso è uno spunto interessante perché ci passiamo tutti quanti. Ora, questo è un paese dove si calcola che ci siano 600.000 immigrati irregolari, persone che presumibilmente quando hanno un problema di salute è esattamente nel pronto soccorso che finiscono mediamente. E certo, un tema dell'intasamento ha a che fare con questo, dico, fuori di propaganda e di ragionamenti vari, Speranza, sotto questo aspetto c'è un modo di intervenire secondo lei per sistemare la cosa? Guardi, il modo di intervenire è evidentemente quello di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e lo stiamo facendo anche dando forza agli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In questa manovra di bilancio investiamo 235 milioni per acquistare dentro gli studi dei medici di medicina generale, i medici di famiglia, i medici che ciascuno di noi ha e che consulta nella propria vita, nella propria esistenza, strumentazione per la diagnostica di primo livello. Mi scusi, dai quali però gli irregolari non vanno, dai quali i migranti irregolari non vanno? Guardi, sinceramente la nostra Costituzione all'articolo 32 ha parole molto chiare. Dice che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, parla di individuo, ci fu un lungo dibattito, c'era chi proponeva la parola cittadino, c'era chi proponeva la parola lavoratore, c'era chi invece alla fine l'Assemblea Costituente scelse la parola individuo. Individuo significa che non conta da dove vieni, il colore della tua pelle, quanti soldi hai, di chi sei figlio. Se sei essere umano, per la Costituzione italiana hai diritto ad essere curato e io penso che questo sia una conquista fondamentale della nostra civiltà giuridica, della nostra comunità nazionale, dobbiamo difenderla. Di fronte ad una persona che sta male, a me sinceramente interessa poco il colore della pelle, da dove viene, credo che sia dovere dello Stato curare le persone che stanno male e penso che per farlo abbiamo bisogno di investire di più nel Servizio Sanitario Nazionale e nei pronti soccorsi. Soccorso ci sono problemi perché c'è poco personale, perché questo personale non è pagato come dovrebbe, perché si è investito poco su nuovi macchinari. Dobbiamo ricominciare a mettere risorse nel Servizio Sanitario Nazionale, chiudere definitivamente la stagione dei tagli e ricominciare ad investire con tutta la forza che abbiamo. L'ultima cosa che le voglio chiedere, Ministro, lei ha espresso ottimismo sulla durata del governo Conte 2. Però ieri il Movimento 5 Stelle ha espulso il senatore Paragone, se ne è parlato prima qui anche con Paolo Mieli. Ma non crede che le fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle, perché Paragone non è solo, potrebbe essere sostenuto anche da un politico popolare nel Movimento 5 Stelle come Alessandro Di Battista, è con lui anche la Lezzi, insomma, non crede che queste fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle possano mettere a rischio di qualche evento imprevisto in questo momento per la vita del governo Conte? Ma è chiaro che le fibrillazioni non fanno mai bene, però io non vedo nessuno mettere in discussione il governo, sinceramente. È un dibattito interno, io sono componente di un'altra forza politica, quindi non posso che esprimere rispetto, insomma non entro in vicende che non riguardano chiaramente la mia forza politica, però non mi pare che ci sia una discussione su questo governo, è una discussione su assetti interni, su equilibri interni, sono cose che legittimamente avvengono dentro tutte le forze politiche, ma non mi pare che sia in discussione la tenuta del governo. Io vorrei però che in questo 2020 si faccia appunto una moratoria sulle polemiche, sulle dinamiche interne e ci si concentri sui problemi del Paese, perché i problemi del Paese sono la ragione di fondo che ci ha portato a far nascere questo governo. Ecco, io vorrei un 2020 in cui si ricominciano a mettere davvero risorse sul Servizio Sanitario Nazionale, in cui si affrontano i problemi che riguardano liste d'attese, pronto soccorso, compartecipazione. Sarà l'anno in cui finalmente si abolisce il super ticket, che era la tassa più brutta, la tassa sulla salute, 10 euro in più per fare una visita specialistica, e questo governo l'ha abolita. Ecco, vorrei una fase in cui si discute, si ragiona e si trovano soluzioni sui problemi delle persone, a partire dal lavoro e dalla questione sociale, che per me sono i punti fondamentali da cui rilanciare l'azione di governo. Grazie Roberto Speranza, Ministro della Salute, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon inizio d'anno, naturalmente. Ministro. Grazie a tutti voi, buon anno a tutti gli ascoltatori. E salutiamo adesso Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che ci ha raggiunto. Buongiorno Magri, benvenuto. Buongiorno a voi. Il tema ovviamente è l'uccisione da parte degli Stati Uniti del generale iraniano Qassem Soleimani, una delle figure principali, anzi la figura principale delle operazioni iraniane all'estero. Prima di chiederle che cosa rappresenta questo, questa uccisione, Magri, le chiederei di dirci chi era Soleimani e perché era così importante, per spiegarlo ai nostri ascoltatori. In Iran c'è un esercito regolare e ci sono i guardiani della rivoluzione, che sono una struttura di 150.000 persone circa, che hanno il ruolo appunto internamente di proteggere i valori della rivoluzione, di difendere lo Stato, esternamente, nella brigata esterna, di occuparsi di fatto della politica estera del paese, in tutti i paesi dove c'è un'influenza iraniana. Soleimani era il capo di questa brigata. Una brigata di 15-20.000 persone, ma l'insieme delle guardie rivoluzionarie è in Iran un potentato militare, economico vastissimo, con un ruolo politico molto rilevante. Soleimani era la seconda figura, più di Rouhani probabilmente, nella gerarchia iraniana dopo Khamenei. Quindi è come se, per dare un'idea a chi ci ascolta, è come se nello stesso operazione gli americani avessero ucciso il capo della Confindustria, per il potere economico enorme che ha nella struttura iraniana, questa struttura delle guardie della rivoluzione, un leader politico, addirittura possibile candidato presidenziale, lui si è sempre sottratto a questo ma era popolarissimo nei sondaggi, e un leader militare eroico per gli iraniani. Certo, la lettura americana è diametralmente opposta, ma per gli iraniani è una figura quasi mitologica. Senta, siccome il ministro degli esteri iraniano Zarif ha già detto che gli Stati Uniti si assumeranno la responsabilità di questo avventurismo disonesto, e siccome già in passato esponenti alti esponenti dell'esercito americano avevano preso le distanze da alcune decisioni del presidente Trump, le chiedo come mai in questa occasione, diciamo, gli Stati Uniti hanno deciso di prendere una posizione così significativa, che potrà avere effetti enormi sulle relazioni tra Stati Uniti e Iran, ma anche su tutto il bacino medio orientale. Perché è stato consentito a Trump di prendere una decisione di questo genere? Lo capiremo nei prossimi giorni. Certamente capiremo quanto è stata condivisa, quanto è stata tagliata, quanto ne sapeva il Senato, per intenderci. Perché torno alla domanda implicita, cosa può succedere, e questo ci aiuta a capire perché. Questo fatto può rappresentare, nessuno se l'augura, ma può rappresentare per la regione una sentita come l'uccisione di Francesco Giuseppe per la Prima Guerra Mondiale. Per il ruolo che giocava nel paese, un paese in difficoltà in questo momento, e in una serie di paesi che vanno dall'Iraq, dove peraltro è morto, al Libano, allo Yemen, alla Siria, questa operazione può scatenare una escalation, una reazione a catena in vari paesi che può avere conseguenze davvero pesanti. Allora, la domanda è perché Trump, e perché lei chiedeva, gli apparati americani hanno consentito questo. Allora, vogliamo sperare che non sia questa la lettura, una imprevedibilità e un senso di rivalsa fortissima di Trump, che abbiamo visto in altre occasioni, sempre bloccato il last minute, quindi non ci dà la risposta alla domanda che lei mi ha fatto. Ci può essere una volontà di Trump di presentare questa operazione come la sua uccisione di Bin Laden, perché il ruolo che ha questo personaggio nello scacchiere medio orientale è paragonabile, anche se è meno noto all'opinione pubblica. C'è però il rischio, per contro, oltre all'escalation di cui parlavo prima, che avrebbe conseguenze tremende, vuol dire una guerra nell'anno elettorale, c'è il rischio che una parte di senatori repubblicani, quelli della vecchia guardia, silenti ultimamente, possano prendere le distanze. Questo potrebbe aprire un fronte difficile per Trump quando ha bisogno dei voti di tutti i senatori repubblicani per l'impeachment che arriverà al Senato nelle prossime settimane. Quindi è presto per capire perché. Certamente è una notizia, è una decisione di portata eccezionale, ripeto, è una figura contemporaneamente letta in modo diverso dai due fronti, l'architetto delle guerre in Siria, Israele, Yemen, Iraq per gli americani, quindi un terrorista, il capo delle forze che hanno contrastato l'ISIS, al-Nusra, il terrorismo di ISIS in questi anni, quindi una star dentro il paese e in altri paesi. Sì, sì, l'inedito qua mi sembra, insomma, si citava l'esempio di Bin Laden, l'inedito qua mi sembra, Magri, è l'uccisione di quello che di fatto è un uomo di Stato, ossia sarà pur visto dagli americani come un terrorista, però è un uomo di Stato in Iran. No, certamente è un uomo di Stato, ma adesso non voglio fare similitudini azzardate, ma anche al-Baghdadi, in quanto califfo, era considerato dello Stato islamico un uomo di Stato, cioè questa è la lettura che può dare Trump, dicendo sono terroristi, queste brigate sono definite terroristiche dagli americani, ma il peso e la popolarità è diversa, e la reazione iraniana, un Iran che abbiamo già visto in questi mesi, da quando il negoziato sul nucleare è saltato, da parte americana ci sono imputate una serie di conseguenze in vari paesi, e noi ci chiedevamo, e molti si chiedevano, molti osservatori, qual era la strategia di lungo periodo di Trump: portare lentamente a un nuovo negoziato o l'unica alternativa rimaneva la guerra. Ecco, è difficile pensare dopo questa operazione, è una reazione a caldo che abbiamo in questo momento, che la strategia sia quella di portare un nuovo negoziato. Quindi, allora, grazie a Paolo Magri. Quindi resta la guerra. Sì, pare, pare evidente. Fa paura questa parola, ma insomma... Pare evidente. Allora, grazie a Paolo Magri, noi dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Cara Maria, noi ci risentiamo martedì 7, no? Martedì 7, sì. Benissimo, intanto benissimo. Buon lungo fine settimana ai nostri ascoltatori, a tutti. Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Alessandro Chiappini e Carmelo Lauricella per la parte tecnica in regia. Noi dunque ritorniamo il 7 all'orario consueto, mi ritrovate alle 6:30 e vi aspetto, mi raccomando, vi aspetto. Nel frattempo vi lasciamo a GR24 e alla programmazione di Radio 24 di oggi. A martedì, ciao.